mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui, questa volta restate qui. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui. Tower Nerds, Ricky, Summer Gucci. Ogni notte un film, nuovo flash drive in. Ogni giorno il sole splende sulla testa. Qui ti scalda dentro, man, è tutto un fuoco. La temperatura sale insieme ai gradi in corpo. Evoca Red Bull, whisky, Tennessee e l'Eros Dry Gin oppure Sex on the Beach. Voglio più fuoco miss, quindi move your body. Come on Barbie, let's get party. Ogni giorno esco presto per non tornare tardi. Sono le 7 del mattino e ballo lalli cali. Io qui rimango in piedi finché non mi parli, aspettando i tuoi sguardi, aspettando altre estati. Ogni momento fra me lo vivo a pieno. Oggi resto tranquillo, questo giorno è sereno. È una serata nuova, togliti ogni freno. E il mattino c'è mattina, ancora viaggi come un treno. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui, questa volta restate qui. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui. Tower Nerds, Ricky, Summer Gucci. Dai, puoi volare la tua testa altrove. Per parlare questo sole fai parlare il cuore. Fai cantare la città sul tuo sound estate. Finché non ritrovi il mondo dietro a farti il playback. Amen, amen, was my motherfucking amen. L'ho scritto grande sulla spiaggia nell'ulto gang. E come un calciato lo palle ancora da calciare. In campo vedo alzare un cartello con su scritto facci sognare. Però anch'io ho un sogno e non potermi svegliare. Proprio quello che voglio e non poter ricominciare. Forse il massimo orgoglio, sì. Quale orgoglio vederti ancora sorridere, per me l'estate. Vederti ancora che ami, per me l'estate. Vederti riuscire a vivere, per me l'estate. Ed eccitante quanto le tue curve abbronzate. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui, questa volta l'estate qui. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui. Tower Nerds, Ricky, Summer. Kill a man, cambia pelle come Sherry. Sole scalda la gang come alle Seychelles. Bermude, t-shirt, infiammabili come alla Shell. Bella vita, San Tropez, questa è la Tower Nerds. Non voglio stress, ma bikini negli asciugamani. Dick nude, hanno bags, stretta fra le mani. Vivere la notte, non pensare al domani. Più vai, più palme, Hawaii, 40 gradi. Più rosa di Pantani, più Dani, senza pan. Con amici, pizza nei locali o pizze nei bar. Due contro due, sulla sabbia faccio la star. Io non muoio in estate come Malika Ayane. Al club, dal primo raggio caldo di maggio. Fino a fine settembre, quando torna lo scazzo. Abbraccio, chi ha finito un viaggio e mi rilasso. Riguardo le foto, aspetto il prossimo anno. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui, questa volta restate qui. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui. Tower Nerds, Ricky, Summer Gucci. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui, questa volta restate qui. Non mi importa del caldo che hai, non mi importa se fuori non stai, ma stavolta restate qui. Tower Nerds, Ricky, Summer Gucci.